schiena. Sono tutto rotto, questo tempo mi sta ammazzando. Vi prendete pure che sto cercando di riparare un PC. Ogni tanto si spacca qualcosa. Se va male qualcosa c'è tavuri, ti diamo rottamazione già. Più che la roba è il padrone che dovrebbe andare a rottamazione e continuiamo questo passo. Va bene, avanti. È andato via lo pomeriggio. Diciamo che si sta spostando in macchina per quanto ho capito. Vediamo un po', lupo grigio ci sei? Marco, io. Ma non è che hanno fatto anche un contributo per i cibi del 110% per rifarti la trazione? No, magari. Magari ci sono delle da tutte le parti, almeno a parole, cacchio, dice per rifare il coso, il miglioramento energetico di due classi, ti fanno tutto nuovo, eccetera, eccetera. Se c'è qualche legge nuova possiamo fare un comitato per farci dare la rifare la stazione di CB o radioamatoriale per chi è radioamatore. Ci facevamo mettere i ripetitori. No, un paio di cose, di apparati HF, un bel raccordatore, misuratori di campo, cacchio, microfono, un po' di microfoni, così, tanto per fare ringiovanire la stazione, un paio di ricevitori dedicati e qualche amplificatore da un paio di kilowatt, così tanto per avere qualche watt. Kappa, ma tu non c'era l'amplificatore grande, quello di... non ce l'avevi tu quello che ci aveva, come si chiama, maestrale? Allora, maestrale me l'aveva dato a tenerglielo, ci credi, io non l'ho mai usato, l'ho solo acceso, una volta ho visto, stava facendo un mezzo contatto dietro nel PL, perché non era saldato bene, lo aveva dietro all'interno, glielo ho saldato, io non l'ho mai usato, l'ho tenuto, poi era venuto a prenderlo perché lo doveva dare a Mario Massa, quello aveva 600 watt, era una bella bestia con l'amplificatore, ma io non ne ho mai utilizzato l'amplificatore. Ho capito, no, io mi ricordavo che l'aveva data a te, poi non mi ricordavo che era venuto a pigliarlo, mi ricordavo che avevi quello suo. Andoia. Oramai, ma tu lo stai sentendo a Salvatore? Io sono solo un po' che non lo sento manco su Messenger. Come? Dimmi, Cla. A me, chi è stato aperto il frigo? Niente, ancora niente, Cla. Ma non ti preoccupare, già lo troviamo, non ti preoccupare tu, già lo troviamo da sotto terra. Aspetta, scusatemi un attimo. Claudio, anche vicino a casa li hanno staccati delle 500 tipo 9. Ce n'erano due tutte e quattro senza frigo, perlomeno penso che li abbiano staccati. Sto dicendo, ti ho avvisato, stai attento dove parcheggi la macchina perché stanno ovviamente fregando i frigi. Il bello che io non lo trovo originale come il mio, non lo trovo, capito, non lo trovo. Ne ho trovato ma non sono, non mi piace, non sono originale, io lo voglio originale. E non c'è, capito, non c'è neanche l'Alfa Romeo. E chissà quanti ce ne sono, lì anche a Porto Torres, è provato. Quel ferrovecchio che ce li ha Porto Torres. Lì magari ce li ha, Qui c'è in contatto Bruno, se conosci a Bruno, quello che lavora da gommista, quello che lavora da... come cavolo si chiama? Prima era Lopez, adesso sono in due. C'è Bruno, se conosci a Bruno, lui mi aveva buscato la gomma, la ruota nuova per la macchina mia, da un Alfa Romeo proprio, ci aveva attrezzi e tutto, mai usato. E me l'ha data 30 euro, che costava 300 euro il ruotino, Claudio. Sì, amico di Roberto quello, infatti dovrei chiedere a lui, però non gli ha dato notizie. Sì. No, sono a Malcedo, a Tavoli, non ne hanno. Le rottamano così, non li recuperano i freggi, non se ne vada in nuda, capito? No, non ne hanno, vabbè, mi toccherà ordinarlo da fuori, già voi ti dico, è un danno allucinante, cazzo, ma non per i soldi, no, perché mi hanno mancato anche il cofano, cazzo, l'abbiamo messa tutta in ordine, tutta lucidata, tutto a posto, una rottura di balle, una incazzatura. A quelle 500 deve essere, gliel'hanno puntato il cacciavite e gliel'hanno graffiato, come hanno puntato il cacciavite per staccarlo. E a me non hanno fatto così, hanno messo il cacciavite, hanno fatto leva e mi hanno mancato il cofano posteriore. È una ciappalla a tagliare di mano. Ehi, a tagliare le balle. Se lo trovo io? No, le balle. Ehi, a strazzatura mi stra. A testa ne stacco, ho capito, la metto dentro il cofano, lo trascino, cazzo, maledetto bastardo. La macchina nuova, cazzo, nuova. Un me- come si va nei Citagas? Nuova nuova. Ma quanto costa? Non molto che si frigge. Aspetta, no, che poi Claudio, io stavo ascoltando, tu hai detto che ti ha fatto danno perché c'aveva il bullone interno che lo teneva e quindi ti ha storto anche la carrozzeria, giusto? Esatto, c'è un bulloncino passante attaccato al fregio, entra dentro il cofano, poi c'è il pannello, qui devi togliere il pannello e svitarlo, come quando l'abbiamo verniciata, sono stati mollati sia anteriore che posteriore. Questo invece hanno entrato al cacciavite, hanno tolto solo la plastica del fregio proprio, tutto il pezzo è rimasto attaccato, ma in più mi hanno scassato anche lo sportellone. E magari l'hanno pure impaccato, magari non l'hanno tolto manco intero, perché facendo così lo puoi anche spaccare. E su internet, Claudio, guardate, ma non sono originali, io ce li ho tutti e due originali, li avevo comprati, ordinati da fuori, mi erano venuti 35 euro l'uno, capito? Quelli che vendono sono in plastica, i miei erano in ferro, capito? Che siano in biglietti, erano i biglietti, sono in ferro, sia quello di davanti che quello di dietro. Ho capito. Avanti, a chi tocca, già lo farà, riprendi. Sono qua, che sto continuando a riparare sta cosa. E oggi riparati, Gianfra? La tastiera, deficit, è staccato da uno di quegli affari USB, da quegli abini USB, e mi sa che è partito l'abino USB, guarda, la tastiera. Sta facendo un po' di casino. Vabbè, pazienza. Il fatto che non riesco a inchinarmi, insomma, la piena. Quindi è un problema, capito? Anche questi lavori, tra virgolette, semplici, diventano difficili. Tutto lì, riprendi, Marco. Ehi, una domanda per Gianfranco. Allora, in un Intec omologato, con presa Maica a quattro poli, si è squartata la guaina completamente, il microfono è a condensatore normale, però non amplificato. Se gli metto un dinamico con la piedinatura giusta, ci sono problemi? Di norma no, tenendo presente che comunque al condensatore arriva sempre un po' di corrente, poca ma arriva. Io ti consiglio, per questioni ovviamente di dinamica, di non mettere quello, diciamo, dinamico, perché di norma sono di scarsa qualità, capito? Perché il vero microfono dinamico costa veramente caro, se non te lo mettono su un baracchino di certo. Mentre quelli a condensatore hanno delle ottime larghezze di banda, sono anche molto, molto più potenti del dinamico, facilmente amplificabili, e quindi qualitativamente è meglio lasciare qui, ecco, farò da poco. Il cavolo, e allora devo sostituire lo spiralato, così è, una rogna è per me. Perché Marco, una rogna, cosa ci vuole a cambiare lo spiralato? Non ci vuole niente, no? Ma devi dissaldare lì dentro, per me è una rogna, una rottura di palle. Vabbè, poi dicevo, microfoni originali, cioè microfoni a condensatore non amplificati non ne vendono. Io quelli che vedo sono tutti i famosi DMC, Midland, Lafayette, però sono a capsula 500 ohm, capito? Invece qua capsula condensatore ha roba di 50 kg, insomma, di diversa impedenza. E se non mi sa cosa faccio, gli lascio lo ZG M95, glielo metto come se fosse un mic normale, regolato a metà, in affutto, modulazione ottima, se voglio posso spingere un po' di più, pazienza. Va bene, risolto, dai, risolto il problema. Ah, poi, in questo microfono Intec, dietro, per farlo più nota e per farlo più pesante, c'è avvitata una piastrina ovale, un inserto di metallo che in proporzione alla dimensione è bello pesante, sembra poi tutto strano come finitura, grigiastro, sembra un anime impoverito, sembra. Magari lo riciclano mettendolo nei microfoni CB, non sanno dove buttarlo. Speriamo di no, però, perché è radioattivo, esce a vedere. Non fa odori strani, non ne ha. ancora c'è l'alternanza, l'ho sentita anch'io, ma chi è che me l'aveva detto? Roberto, l'ho sentita anch'io. Claudio, fai orecchio. E prima non c'era questa leggera alternanza, sicuramente è l'alimentatore che è da pulire, Io non sento niente, non lo so. Vabbè dai, io mi preparo, rimango in ascolto, mi preparo che sta arrivando un'altra bella passata d'acqua e vado a sistemarmi il cane. Sentiamo dopo. Di nuovo, cavolo, io sto sempre in questi giorni, stacca e attacca le spine, stacca e attacca l'antenna, sai, computer, bracchini. Non voglio rischiare, porca miseria. No, ma temporale non ce n'è, c'è solo acqua, adatto acqua e basta, temporale non ce n'è. Devi stare attento, non ci sono fulmini, queste cose così. Capito? Non lo sto staccando neanche io, vabbè, io stacco lo staccantenne elettronico e basta. Non tocco altro e abbasso il salvavita. Però quando ci sono fulmini e temporali stacco anche i bocchettoni dalle radio, nonostante ci sia sul relè sganciato, però lo stacco per sicurezza, capito? È la presa che alimenta gli alimentatori, anche se c'è salvavita abbassato, perché già una volta mi ha fottuto. Dai, ci sentiamo dopo, riprendi Gianni. Sì, ecco, dai, buon correttivo, buona passeggiata, dai, che fra poco vado anch'io. Sono al telefono, scusate, riprendi Marco. Eia, ok. Allora, vediamo se c'è, dunque, Roberto era al telefono, vediamo se è rientrato. No, telefonata lunga, ad ore di lavoro. Gianfranco, cosa ti volevo chiedere? Non me lo ricordo. Questo è Alzheimer galoppante, preoccupante la cosa, L'età, evidentemente tutti gli anni contano doppio. Mi sa. No, avevi sentito prima di quel microfono senza fili Bluetooth che avevo detto a Gianni per il presidente. È una cosa interessante, fa da anche da altoparlante, se tu vai in giro per la casa anche al cesso e puoi modulare al baracchino, magari fa sentire anche i rumori dello sciacquone, che so, o peggio. Oh, ti compri anche uno di quegli affari che ti collegano i Bluetooth normali, guarda, andrebbe bene anche un semplice auricolare. L'unico problema sarebbe il PTT, come al solito. Però una parecchia al box, magari adesso anche molti paracchini ce l'hanno, potrebbe usare anche quelle così. E comunque con questa accusa, diciamo, per quello, per quell'altro, però poi sono tutti adattabili, anche quelli meno costosi, altre baracchini che sono semplici. Un attimo che sono al telefono. Ok. Eccomi, tutto per voi. Sì, a quanto pare si è bruciato, non proprio bruciato, ma perlomeno ha diminuito molto la potenza dell'alimentazione delle USB, per quello che non riesce a gestire il mouse della tastiera. Causa probabile assorbimento eccessivo. Ah, che penitenza, mamma mia, ce n'è sempre una. Questo è perché fanno le cose proprio senza essere sovradimensionate, sono tutte pelo pelo, con la corrente a 12 te lo fa a 16, anche, magari a 14, solamente a 14 si brucia tutto. Guarda, è una cosa esasperante. Vabbè, la roba elettronica, insomma. Allora, ho preso un po' il filo, dunque Gianni, già nel telefono. Claudio, ci sei ancora? Non so se è scritto col cucciuccio. Sì, probabilmente ci ha detto che portava il cane prima che piovesse di nuovo, dai. Va bene. Che rottura di palle è questa storia di queste guaine microfoniche, cioè a parte che le fanno molto più sottili, cioè il cavo del mic è più sottile. Questi 3009 avevano quella meravigliosa guaina nero lucida, un po' di spessore generoso, siamo sui 6 mm, quelli saranno 4,5. Questi microfoni, come quell'ultimo baracchinetto che ti riguarda. E poi si rompe prima di subito, cioè ci bisogna mettere in conto che tutti questi apparecchi moderni, che ne so, il 9009, il 6009, i vari President, Anettone, il famoso HR5500, cioè sono predestinati già a rompersi, anche trattandoli come reliquie si romperanno le guaine, non il cavo in sé, ma la guaina. Che palle, vabbè. È questione di gomma, che costa troppo cara e quelli ci mettono roba a scadenza per i costi, no, una questione di costi, e quindi capita quello, così almeno si possono far comprare un altro microfono, perché anche su questo vediamo un po' sì. Che va dentro il microfono, che termosaldato, mettiamo di attuglierlo, si deve attentare con la lametta, se ne esce, e poi ricostruirlo in qualche modo. È un disastro, va. È un casotto micidiale. Sono rientrato io. Ehi, a voi, Robè, dai. Claudio è andato a portare il cane, credo, già nel telefono. Anche io al telefono. C'è la mia figlia, mi stava parlando. Ok, cosa è successo nel frattempo? Nessuno l'ha ammazzato, niente, attentati? No, fra poco sparo io a un hub USB, così si impara, anche di quelli buoni. Ma non ti puoi più fidare di nessuno, veramente. Cioè, tu pensi, spendo di più, però compro una cosa buona, invece. Sì, è vero. Nicola, Lupo Grigio è rientrato, dice forse veniva in macchina, magari riusciva a coprirsi dal freddo, che dice stava gelando in terrazza, oggi c'era freschetto. No, allora oggi è rientrato a casa, ha detto che domani, presumo per il tempo migliore, si spera, va a Piazza Resini a fare prove o a modulare, dai. Ma ancora non ha sistemato questa antenna? In condominio non vuole avere rogne, e tanto si sa, mia antenna CB uguale rogne. Però, pazienza, anche se ti dicono, guarda, le mando, mandi chi vuole, chiami tutti, una volta che lui c'ha l'omologato, insomma, salvo che non ci abbia una rete del letto come antenna, non dovrebbe dare problemi, boh, purché lo sa. Certo che uno innocentemente, cioè compra un omologato, piazza un'antenna, la mette magari più in alto dell'antenna TV, dietro l'antenna TV, disturba lo stesso, c'è una remota possibilità che sia il baracchino, che ne so, malfunzionamenti di fabbrica, cioè magari poi lo castigano, gli organi di controllo, lui non ha colpa, perché, boh, Gianfranco, cosa... Cioè, uno come fa a sapere un novellino che piazza tutto bene, antenna, cavo buono, baracchino omologatissimo, e poi magari ha delle spurie inaspettate? Tanto puliscono sempre lui, no? Vabbè, dimmi qua. Dai, sto uscendo. Ho detto, mi sta dicendo Gianni di chiedere a quello del portatore, cioè, ma non è quello che ci aveva dato quegli altri pezzi a noi? No, non è il portatore dell'Alghero. Ah, vabbè, dai, ok, vedi tu. È un bel brutto a cucina, non mi piace, fai qualche cosa. Se no l'avremo alfa cagato nel sacco. Ma se vuoi io ti do, così, l'unica macchina a Sassari, la scritta ibrid, hybrid, te la metti dietro e scatta. Alfa 147 hybrid. Vabbè, ma che tappa quel buco? No, è lunga, la tua è rotondo, se no ti metto un marchio, ti metto BMW, che cosa lo vuoi? Mettici Gaggio, non ce l'hai il marchio Gaggio? Se no ti metti marchio Dacia, ti ricatto una 147 Dacia. È una merdaccia, così facciamo. Davvero, non ti preoccupare, già lo troviamo qua, dai. Non ti preoccupare, non prendere nuda, ma che non te lo regali, no? Non prendere nuda, già te lo trovo io, non ti preoccupare. Ok, cosa stavo dicendo adesso? Ho perso il filo, stavo parlando con Gianfranco e coso. E Marco, cosa mi hai detto Marco? Non me ne ricordo, no, stavo ridendo per la bazzecca. Merdaccia. Dacia o Skoda, mi. Mamma mia, che cosa brutta, suona bene, persona Alfa. Che idea, macchina vera, che la chiamano qui per la merdaccia, figurati. Dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti, aiuto. Ciao qua, buona passeggiata, vai a fare. Eppure sono macchine che vanno molto bene, e non sono male l'ultima serie, se mi parli di quelle delle prime, ma la Dacia poi c'ha tutti i motori alla Renault. C'è gente che dopo 2-3 anni ne è soddisfatta, molto di più di certe Fiat. Diciamo la Dacia è il marchio economico della Renault, diciamo utilizzano le parti meccaniche della Renault, sono motori affidabilissimi, magari le plastiche saranno un pochettino meno rifinite, ma sono macchine più o meno che vanno bene, per quello che costano vanno più che bene, hanno un grosso mercato, soprattutto quei SUV piccolini, la Duster, la Corso, anche quei monovolumi, non monovolumi, quei furgoncini tipo il Fiorino, ho visto che stanno vendendo parecchie, sono motori abbastanza affidabili, uno che vuole spendere poco, qualità prezzo è un'ottima macchina. Infatti, perché conferma che non sempre è stato detto, chi poco spende poco ha, in teoria dovrebbe essere così, però a volte la pratica le smentisce, c'è la Fiat che ti fa pagare anche quando ti siedi in macchina. Vabbè, questa è una questione di mercato. Okay. Se tu vai a comprare la Fiat in Francia costa almeno il 25% in meno di quanto la paghi in Italia, non parliamo di altri mercati, idem le macchine giapponesi qua da noi costano molto meno che le paghi in Giappone. Poi c'è anche la Skoda, che noi critichiamo tanto, la Skoda li fa per certi versi e hanno fatto delle prove comparative con la Volkswagen vera e propria, qualità costruttiva, rifiniture eccetera eccetera, allineamenti di particolari, ha superato quella prodotta in Spagna, ha superato quella prodotta in Germania, per dire. Ce n'è gli esempi, poi ci sono i modelli che escono di più e i modelli che escono di meno, quello capita tutte le case, quindi così bisogna sempre guardare cosa dice la massa, aspettare un paio d'anni, non prendere le cose troppo nuove, solo che se ti decidi tu sei un po' la base, ecco. No, assolutamente, anche se c'è da dire che hanno milioni e milioni di chilometri di collaudo e coso, però adesso bisogna guardare soprattutto l'assistenza dei marchi, perché uno non deve solo guardare il coso, l'estetica della macchina, dice ho comprato la Mazda, niente da dire, è una buona macchina, oppure mi compro la Honda, e dove cacchio li trovi i pezzi, non abbiamo assistenza, ti si rompe qualunque cosa, rimane ferma, già con marchi importanti, noi abbiamo in officina una macchina, una Ford Ka, immatricolata dicembre 2019, a febbraio ha avuto un incidente, il 4 febbraio abbiamo ordinato il pezzo, non è disponibile sul mercato, non esiste in produzione, dovranno togliere, come ricambio ancora non esiste, gli hanno mandato 2000 email, dovevamo segnalare ad aprile, poi da aprile a maggio, poi è stato fatto tutto ad agosto e stiamo ancora aspettando da febbraio uno sportello di Ford Ka, l'ultimo modello, perché non è ancora in produzione. La Ford è grave perché ne vende tante, ma guarda, era capitato a un mio collega che gli si era dalla Fiat, tra l'altro gli si era rotto, credo, l'alternatore, mesi da Torino, detto, sì, arriva, ma è una cosa, guarda, è impossibile. Noi avevamo una Jeep, una c'era una Wrangler o che cos'è, non Wrangler, come si chiama, la Compass, si è rotto un lunotto posteriore, non era disponibile, un sacco di perdite di tempo, revisione dopo un mese, nulla, non è arrivata, allora alla fine abbiamo mandato una mail al servizio clienti, subito immediatamente un paio di giorni sono riuscito a beccarla, però c'è una buona cosa, la Fiat, vabbè, i marchi Jeep vengono dagli Stati Uniti molte volte, questi pezzi non sono neanche prodotti qua in Europa, per cui è un po' più lungo, se manca un prezzo di ricambio, c'hanno la concessionaria di andare all'auto up, devo ordinare un paraurti di Bravo, per fare un esempio, non c'è a Sassari, non c'è a Cagliari, loro sanno automaticamente tutte le concessionarie d'Italia, chi ce l'ha, è capitato a me da poco un pezzo, è un particolare molto difficile da trovare, me l'hanno beccato da coso, da Roma l'ho fatto arrivare, e ne avevano tre, questi qui è arrivato, mentre la Ford, per un particolare che serviva per il camper mio, un pezzettino esaurito, niente, da nessuna parte, e loro non hanno il collegamento tra le concessionarie. Vedi, marchio Ford è abbastanza importante, devi mandare una mail alla Bologna e poi la Bologna loro manderanno una mail a tutte le altre concessionarie se c'è disponibile il pezzo. Allora l'assistenza di cambi la Fiat da quel punto di vista è un pochettino migliore di altri. Che poi non c'hanno molte scuse, perché proprio lo possono far arrivare anche in aereo, volendo, adesso anche la roba dagli Stati Uniti, sono spedizioni urgenti che arrivano entro una settimana, quindi solo che evidentemente non ci tengono molto. La cosa, ho notato che sono poi dei maniaci, cavolo, non c'è parte della macchina che non sia registrata, ma non stiamo parlando di cose grosse, ma anche il pulsante del che ne so, che ti accende la luce, tu lo guardi, pezzo, numero, matricola 00000, una cosa allucinante. Una volta quando c'era una fiesta mi si era dato proprio un pulsante dei finestrini, e ero andato a cercarlo a quello vecchio, mi hanno guardato male, hanno detto no, non mi cerchi forse, perché quelli le macchine le fanno proprio sparire, non voglio neanche che vadano a quello vecchio. Non ho capito, ma come fanno, se le raccattano tutte? Non lo so, io diciamo i numeri particolari ci sono su tutti i pezzi, tieni presente il 90% dei pezzi di ricambio non li producono le case che tu dici, ci sono delle ditte esterne, ti fanno la scocca, quelli che lo fanno, che riescono a farla tutta la scocca, perché su certi tipi di marche non riescono neanche a farlo, per cui ci sono delle ditte esterne, il cofano che è in alluminio te lo produce una ditta esterna, e gli sportelli che hanno dei rinforzi particolari li fa un'altra ditta, producono gli animali, ma la scocca, tutto il resto sono tutti costruiti da ditte esterne e basta, ormai è tutto un assemblamento di cose, come quando c'è un computer, un componente di quello, l'altra scheda video di quello, non c'è niente di coso, di originale, tu senti Fiat e poi vai a vedere e c'è l'alternatore che è Bosch, il pistone le fa la, cosa ti posso dire, non so, mi viene il nome, la SK li fa i cuscinetti, e così sono tutti i marchi. Prima la Ford negli anni 20, anni 30, fino agli anni 40 produceva tutto dall'A alla Z, si è reso conto che non conviene più, perché poi ti parte uno stabilimento e finisce tutto, si blocca la produzione. No, ho preferito dare due o tre ditte, perché i cristalli li fanno due o tre marchi, i fanalini due o tre marchi, le centraline due o tre marchi, in modo se si blocca per dire la Magneti Marelli c'è sempre quelli Bosch che possono sostituire, e così la legge del mercato, non possono fermare un modello perché manca Mari, fallisce con la ditta o si rompe un macchinario. Sì, la Ford guarda, un X per me, causa caffè, a dopo. Producono, per lo meno quelli elettrici li producono in Messico, quindi sono tutti da quella parte. Ora sembrano magari, spero che in Germania dovrebbe, oggi sì, anche lì non hanno cambiato, hanno decentrato. Va bene, riprendi Marco, è andato a mangiare. Via meno agitata, no? Oh, caspita, è tardi, io non mi sono accorto dell'orario. Vi saluto, alle prossime, buona serata. Scappo via, che mi è sfuggito anche l'orario. Allora, sono rientrato? E beh, ci sei ancora? Perché ho detto che stavo chiudendo, perché l'orario è, ho visto che è tardi, devo ancora mangiare, cenare anche. Vabbè, ci sentiamo Roberto, saluta tutti gli altri, me ne scappo via, ciao. Ciao Daphne, buona cena, buon tutto, rimango un po' qua con Rex, se qualcuno nel frattempo entra, se no anche io vado a mangiare, dai. Ok, alla prossima. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Che avanti. Ciao Roberto. Ma tu PMR tu non è? Sì, non ho capito. Giulio. Ah, Giulio, non ti avevo riconosciuto, sono arrivato un'altra voce. Però ho detto, ho visto mai Giulio qui, ti ho risentito, ho detto, cosa hai detto, scusa Giulio. Ho chiesto, ce l'hai il PMR tu? Sì, ce l'ho, ma non l'ho mai utilizzato, ne ho preso un paio, un blocco l'aveva preso Riccardino, ma non è che mi interessi più di tanto, perché? Perché tante volte tu, al perché se qua siamo in PMR. Ma dove vai col PMR? O c'hai l'antenna esterna, se no andiamo. E come ti vediamo? Ci fanno gli altri col gommino. Io perché non ho il gommino? Eppure vado, altro che... Non lo so, questi che c'ho io non lo so dove possono arrivare. L'altro che c'avevo della Brundi faceva 300-400 metri, 500 metri forse. Vai, sai che faccia un chilometro in campo aperto, ma non di più. Ho capito, vabbè, tu hai quello lì. No, devi prendere quello che Baofeng ad esempio, o R5, anche quelli vanno bene. No, già c'ho anche quelli, ne ho due di quelli, però non li ho mai trovati, li ho presi perché era un blocco e aveva presi Sergio, il padre di Riccardo, questo ne stava vendendo quattro nuovi, mi pare a 20 euro l'uno, una cosa del genere, e pare che tutti e due mi sembra 40 euro. Adesso non ti voglio dire una fessina, c'hanno il microfono esterno, si può staccare l'antenna, c'hanno gli auricolari eccetera, però in uno questi di merda non mi hanno messo l'antenna. Va bene, per l'antenna già è una cosa fattibilissima, non è quello il problema. Addirittura c'è gente che c'era costruita l'antenna da usare da dentro casa, penso un po', non è detto che devi per forza, sì, è chiaro, se c'era all'esterno è un altro discorso, ma c'è gente di quelle che parlano così con noi, no? Io se mi sposto dalla posizione indicata, io ho, diciamo che ho diverse possibilità, nel senso che se scendo giù incomincio a non sentire e a non farmi sentire, se invece mi metto in alto, nella parte alta della casa, allora mi sento un po' dappertutto e ascolto, diciamo, tutti con gommino. Vabbè, ma ti hai presente che io sono un bel chiuso qua, ci sono palazzi, diciamo verso giù magari vado bene, ma in certe zone magari non è che va tanto bene, c'ho dei palazzi, sono dentro il cemento armato, la stanza dove parlo è all'interno proprio chiusa, in mezzo ad altre stanze, non so dove, quanto posso arrivare lontano con quella. Data col trasponder. Ok, sentimi, adesso mi ti sto facendo sentire, vabbè c'è un po' di problema perché disturba. Ma che frequenza sì? Sì. Sentito, Sì, qualche volta è capitato di ascoltare, però sinceramente che cosa ne hai giù? Io quello li ho presi, lo sai per che cosa? Per dire, quando siamo giù al campo, quando ci sono, siccome il terreno è un po' grande, magari per emergenza uno dall'altra parte dice, oh mi che sto salendo, mi che è caduto il pallone di lì, mi che devo prendere quello, oppure quando vai col camper, ne dai uno all'altro, ma preferisco più il baracchino qua. Lo so, ma tante volte qua in 27 non c'è nessuno e magari siamo là. Ti stavo dicendo quello, capito, non niente di più, perché usiamo sia l'uno che l'altro. Chiaramente non puoi uscire con 500.000 watt perché quelli non servono a niente, quelli sono mal giocattoli. Tu mi dirai, ma quella non si possono usare? Vabbè, ma con 5 watt non diamo fastidio a nessuno, è interessante non usare l'antenna esterna, quello che interessa, è interessante usare il gommino. Trovare, se tu ti sposti da un punto all'altro potresti anche sentire o non potresti sentire, dipende. Se io ad esempio mi metto nella camera dove sono in questo momento, anche mi metto in una determinata posizione, sento tutti e mi sento, basta che mi sposti un metro ad esempio, uscire fuori dalla porta, ecco che magari non lo sento più e magari mi devo spostare che sono io in un'altra parte della casa. Così funziona, con la frequenza funziona così. Certo, sicuramente. Il tuo, ma quello canalizzato qua c'ha 10 canali, 20 canali, quello lì è? Sì, se per quello ne ha molti di più, un Baofeng ne ha molti di più di canali, addirittura va anche V, se per quello, lo sappiamo, no? Però è interessante non fare gli stupidi, poi ci sono quelle persone che ne abusano e allora non va bene, così non va bene, ma se noi usiamo quei determinati canali che ci sono per il PMR, anche se sono 5 watt, chi è che ti dice niente? Perché? Perché non diamo fastidio a nessuno, ecco qual è il discorso. Siamo sempre fermi sul canale numero 7, 446-081, per cui da lì noi ci muoviamo. E molto spesso ci sono più queste ore, a volte in PMR che in 27. Sì, ma tu è quello che c'è il display digitale che ti apre la frequenza. Sì, esatto, proprio quello. Anche se adesso non la vedo più perché mi è caduto e il display si è rovinato. Però funziona lo stesso. No, la mia è proprio quello giocattolino, mi sembra c'è scritto 5 watt, ma non vi credo che sia 5 watt. Quando cambi canale ti dice il voice, la scheda fonemi ti dice canale 1, 2, 3, 4, 5, così e boh. Ma è una cagatina, c'ha la lucetta, se lo vuoi accendere, tipo pila, è proprio tipo walkie talkie. Dichiaro 5 watt, ma secondo me c'avrà poco più di 500 milliwatt. Senza tastiera? Senza tastiera, è un giocattolino, costa poco. Quelli che ho visto dai cinesi invece erano molto meglio, perché c'avevano le V e le U, erano, come si chiama, non era canalizzato, era sintonia continua, costava ambare 35 euro. Quello che c'ho io è un watt con due zeri. Ciao Giulio, ero in QRX, sì, quello è 2 watt effettivi, 2 watt DRF, dichiarato 5, ma è una balla. 5 le consumerà, ma DRF ne dà 2. Vai Claudio. Ah, quello mio è omologato, è un watt con due zeri. Non è un watt con due zeri? Non ti ho mai detto. È il mio, è della ICOM, è un portatile di ultima generazione, c'ha un watt con due zeri. Un portatile. Allora, sì, ero giù, non è così. E allora, con due zeri, 1,00, poi chi vuole intendere intenda. Cazzo, vabbè, ma mi dice dolce. Guarda, io in capo al mondo arrivo con quello. Ma sento tutti e tutti mi sentono. Sotto immagine di Giulio quel portatilino a me mi arriva quasi 9. Fate il conto. Perché c'è la ricezione. Diversamente non senti niente. Se non ti attrezzi lì non senti niente. Ad esempio io non sento Gianni. Non riesce a salire il segnale dalla parte bassa qua da lui, mentre Luca, l'altro Luca, Manuele, Gio Maria, tutti arrivano dalla Teroce, tutti, tranne che lui da via Valdetta. Io ho capito il discorso, eh. Beh, lo sai che cosa c'ho, non c'è bisogno di dirtelo, portatili, già ne ho 5 di portatili, non Bofeng della Voxon, e altre 2 addirittura digitali, buoni, però non li uso quello grande, là. Chi è che vuole entrare avanti? Mi sentite? Pronto? Guarda, Lucariello è. Chi vuole entrare, sono in camper. Luca, tu sei? Ehi, ciao a tutti, sono io, sono la cenale, dai. Mi sentivo da poco fa, ciao Roberto, Giulio. Capito, è giù, chi vuole intendere intenda, sennò in camper. Riprendi giù. Sennò in camper, allora. Aspetta, per chi non intende, se c'è in camper, cosa vuoi che dia, niente di più. Beh, vabbè, adesso ti dico una cosa, tu non ci crederai. Io ho parlato un paio di volte con l'acustica. E ti posso dire anche con chi? Con l'amico Sandro, che si trovava lì per lavoro, lui era in altura, nella punta più alta della Corsica, e sono riuscito a parlare almeno un paio di volte con lui, almeno per un po' di passaggi. Ok, Robert? Sì, vanno lì in nautica quelli lì, ma ok, non fai certi tipi di cose. Appunto, per non parlare poi di Sentino, Porto Torres, Castelsardo, un giorno che si trovava in barca facendo una passeggiata in mare con un amico sotto Castelsardo, insomma diciamo che magari eravamo d'estate, tutto quello che vuoi, ma non credo che era effetto di propagazione comunque. No, già vanno. Però con quelli che sto dicendo io non va da nessuna parte, è un giocattolo proprio. Infatti diciamo che quello che ho parlato è poco più di una walkie talkie, ma raccontano un sacco di balle. Infatti ho pure le figlie, hanno detto mettimelo in mezzo anche a me. Lo so, ho 500 mille, fate cosa vuoi fare, no? Non fai niente, no? È ovvio. No, diciamo che ci sono anche delle antennine un pochino superiori, perché l'antenna che ho io, il suo gommino, quanto sarà alta? Sarà 15-20 cm, non di più. Però ci sono delle antenne che sono intorno ai 40 cm e ti aumenta, sempre parlando di antennino o attaccare al portatile, e ti aumenta notevolmente anche la distanza sia di ricezione che di trasmissione. Uno quando lo usa in casa con la testa va anche bene, il problema è quando non lo usi con la testa, allora puoi dare fastidio ad altre stazioni, ed è giusto che non si facciano queste cose. Tutto io adesso siamo anni che stiamo usando l'UPMR, adesso anche in questo ultimo periodo è diventato quasi di moda, anche in questo momento c'è la gente. Scusa, 27 è sempre importante. Appunto, è proprio per quello. Ecco, ce l'ha detto Claudio, è testimone qua, sei qui in 27, c'è sempre importante, allora lo facciamo. Ma le rimedi essere per rimedi, no? Ce ne passiamo in PMR, magari lì c'è più possibilità di chiacchierare o robe. Poi si salta da un po', da un posto all'altro, ecco, da 27 a 446. Vabbè, che cosa vuoi fare? Ma che ore sono? Sono le 8:10. Mi sa che ci andiamo a mangiare e spiego tutto. Sta di nuovo diluviando. Diluviando. Sono le 8:04 esatti. Eccolo, sta diluviando sul reloggio. Mettetelo a puntino. Sono le 8:04 e un po' di secondi. Sono. Questo è la radio, cioè giusto la radio. L'orologio che ho io qua sul Comò, un orologio digitale. E così, vabbè, sì. Sì che ci sono, no, ma io ho anche un altro giocattolino, ne avevo due anzi di questi giocattolini un pochettino più sofisticati, che lo tengo così d'emergenza, con quello già puoi fare tutto. Appunto, vabbè, vedi tu. Cosa vuoi che ti dia? Ecco, adesso sono le 8:05, è appena scattato, le 8:05 qua. Bene, bene, bene. Sì, ma ripeto, tante volte magari qua non ci siamo, sembra che non c'è nessuno, invece magari siamo nell'altra frequenza. Per cui, se non ci difendiamo in questo modo, stai tranquillo che la moda della radio qui a Sassari, della radio digitalmente che usiamo noi, va a finire proprio nel mondo estraneo, perché non c'è più nessuno. Alle volte stai a ore e ore attaccato e non entra mai nessuno. E allora in questa maniera ci difendiamo così, un po' in un posto, un po' all'altro, e passiamo l'oretta, un'ora, due ore, li passiamo lo stesso. Certo, ma anzi, diciamo, rispetto ad altre città, io l'altro giorno stavo parlando con questi di Latina, c'era un radioamatore, ma dove sono quattro gatti anche di lì, dice qualcuno da Roma entra, e considera Roma sono 3,5 milioni di abitanti, dice, eppure lì ce ne sono pochi, loro hanno il canale monitor sull'8 oppure se ne vanno sul 2, mi ha detto, no scusa, sul 18 o sul 2, ma non è che siano molti, mi dice, stanno entrando qualche radioamatore ogni tanto, perché anche c'è poca anche attività nel reparto dei radioamatori, la radio un po' sta decadendo. Lo so, io quelli di Roma li sento molto spesso in SDR al computer, no? Su web, non mi ricordo come si chiama, adesso non mi ricordo come si chiama, Roma 2, Roma 4, e ci sono dei collegamenti che fanno tra di loro, sempre 27 e Spiccio, l'altro giorno erano 27.175, erano in quella frequenza, no, in SDR, capito? E fanno delle belle, lo sento chiaro, è proprio bello, forte anche del radio. Poi si possono andare anche in bande laterali, possono andare in FDM, in FM, e dunque non c'è problema. Alle volte quando non c'è nessuno, allora accendo il computer e vado lì. Sì, l'ho visto, quel programma, quello SDRNL che mi ha detto tu, poi c'è Roma 4 dove ad Aprilia c'è un collegamento, diciamo già interessante, però normalmente sono in banda laterale quelli, li ho visti, in USB. Sì, molto spesso in banda laterale, ma io li ho sentiti anche in AM, li ho sentiti, sempre quello, ma Roma 4 e Roma 2. Poi c'è una sfilza di radioamatori, di persone, ma tutti stranieri, e io quei siti lì non li accendo nemmeno, intanto non conosco la lingua, sì, che cosa me ne faccio? Cerco quelle italiane, cerco, tipo Roma 2, Roma 4, e qualche altro, insomma, ecco, tutto lì. E poi vabbè, se uno piace ascoltare c'è anche quello CB Talk, te ne vai su qualche canale tranquillo, qualche conversazione interessante la senti, anche se di lì c'è da dire, sta diventando una polcaccionata, c'è di tutto di più, c'è gentaglia su certe frequenze che parlano solo loro, si raccontano tutto che cosa hanno mangiato, cosa hanno fatto, dove sono andati a fare cose particolari, eccetera eccetera. Ok, Claudio, ci sei ancora? Sempre qua sogno io, dai, un altro passaggio poi si va a papà. Sì Giulio, ho sbagliato io, stavo guardando l'altro che è 10 minuti avanti, perché ne ho due, capito? Uno è alle 19:10 praticamente adesso, e l'altro invece è alle 20:10, capito? C'ho il GMT, no? Per quando faccio per i cosi, per il log. Sì, cioè, è appena scattato solo le 8 o 9 minuti e una 20 secondi, una cosa del genere, per l'esattezza, dai, quello è l'orario preciso. Vabbè, ma a parte quello non è importante, un minuto in più, un minuto in meno, quando ero luce di casa va sempre bene. Sì, è così, io l'ho messo. Lo sappiamo perché ormai la radio sta andando a farsi friggere, non è che ci sia molta gente. Io quando è anche un paio di giorni fa sono stato almeno 2 ore e mezzo, 3 ore fisso io o Gianfranco e poi chi c'era? È un'altra persona. Siamo rimasti tutti e tre, siamo rimasti ben almeno 3 ore, non è entrata un'anima, una sola anima, forse non gli interessava l'argomento che stavamo trattando, non lo so, dipenderà anche da quello, alle volte si tratta di argomenti che uno non è interessato e dunque magari ha l'ascolto però non entra, può essere anche così o vabbè. Adesso molte volte ho trovato pure qualcuno che conosci anche tu personalmente e mi ha detto vi ascolto tante volte, ma perché non entra? Mi ha detto non lo so, mi ha detto Toso, Giulio mi vuole mettere l'antenna, ma mi piace ascoltare io molte volte le conversazioni, dice, ma l'accendevo la notte d'estate, non d'estate, d'inverno, dice, sentivo i vostri discorsi, è più interessante molte volte ascoltare che intromettersi. Lo so, alle volte sì. Alle volte uno non ha nemmeno voglia di parlare, si può trovare un momento magari di stanchezza, che so io. Io la notte avrei ascoltato, ma non c'è nessuno. Alle volte invece me ne vado in 80 metri e ascolto lì, c'è sempre qualcuno che riesco a amplificare, mi metto le cuffie, quando non c'è qualcosa di interessante alla televisione, cioè che mi può interessare alla televisione, allora magari mi colico, mi metto le cuffie, mi metto e ascolto in 80 metri, non faccio altro che girare fin quando non trovo sempre qualcuno, c'è. Certo, qualche volta, adesso no, con l'antenna che adesso no, ma con l'antenna che avevo prima, sentivo anche in 160 metri, sentivo, per cui andava bene, però sempre a livello di QSO o italiani, perché la lingua italiana conosco e basta, no? No, non mi interessano le altre lingue, anche se è bello ascoltare anche quelle, ma a me non mi interessa, tanto non capisco l'accidente. Va bene, dai, adesso io vado via, Giulio, saluto anche a te, se vuoi mangiare buona cena, io vado a mangiare, poi Mario guarda un pezzo di televisione, saluto a Claudio, se c'è sempre, poi quando vuoi basta, già siamo in zona, sia uno che l'altro, già sapete dove sono, quando siete in zona, passate a salutarmi, mi farà solo piacere, ciao Giulio e ciao Claudio se sei all'ascolto, ti lancio a te Claudio se ci sei. Beh, gli 80 metri. Questo è pieno, però il segnale che ho io, Giulio, io ho l'antenna di 80, allora questo sta arrivando 9 e 10, vediamo questo, aspetta, questo 9 più 20. Fatelo conto, ciao Robè, ci sentiamo. Ok, ciao Robè, alle prossime, ci sentiamo. Sì Claudio, vabbè certo, no, con la Game Master tutto quel segnale non lo posso raggiungere. Quando avevo la Mantova Turbo invece sentivo segnali anche 9, 9, 10, 9, 15 e qualcuno anche 9, 20 quando magari caricavano, mentre invece con la DMATE sento lo stesso, però a livello massimo 7, 8, 9 qualcuno, ma raramente, se no di solito 4, 5, ma mi basta, quando sento basta, non mi interessa l'intensità di segnale, è interessante che senta, poi per il resto, tanto io non è che ci devo entrare, devo solo ascoltare, basta, e poi devo ascoltare in cuffia, sicché ti puoi immaginare, devo tenere anche il volume basso, non è che mi devo far spaccare le orecchie, bolino, capito qua? No, io c'ho l'antenna. Ho l'antenna 15, 20, 40 e 80, capito? Quindi i segnali sono molto molto alti, soprattutto a quest'ora a volte ho segnali anche a 9.30, di giorno 7, 8, 9, ma dalle 7 in poi sono tutti oltre 9 più 20, oltre 9 più 10. Sì, la notte prima c'era un bel QSO in 80, adesso anche lì stanno calando, adesso mi farò un po', spengono tutti, anche perché in Alta Italia stavo sentendo stasera c'è un temporale allucinante, ci sono temporali, fulmini, quindi i radioamatori si abbassano le antenne, mettono tutto in sicurezza e non trasmettono sino al tempo bello. Ok. Sì, ma me ne sono reso conto, sono diminuite molto, l'attività è diminuita molto, molto, molto. Poi non parliamo, io ad esempio dalla Sardegna sento qualcuno ogni tanto così, ma niente di più, c'è poca attività, c'è pochissima attività qua, ma alle volte, magari in piena estate, c'è un pochino più di attività anche dalla Sardegna. Ma niente di più, con segnali addirittura più deboli di quelli che mi arrivano da fuori, dalle città dell'Italia stessa, capito? Là. Non lo so, forse dipende da me perché non ho l'antenna adatta, eccetera, eccetera, sarà anche per quello. Poi tante volte ho pensato, adesso mi metto un dipolo così per ascoltare i 40 metri, ho fatto, ma che me lo fa fare, non me la fa tenere da ascolto lo stesso, poi se non ascolto Santiago 9, ascolto Santiago 3, 4, va bene lo stesso, interessante che lo senta. Pensa che l'avevo anche fatto il dipolo, non l'ho mai appiattato, mai, mai, mai, mai. E penso che tenderò a piazzarlo, adesso soprattutto che andiamo incontro all'inverno. Vai, Cla. Ah, ma cosa ne fai? Intanto ascolti lo stesso. Ascolti lo stesso. Io a volte quando non ho voglia di accendere gli altri HF, l'Icono, gli AESO, eccetera, che ho il 440 acceso, non ce la manto qua. Cambio banda e ascolto lì, anziché arrivarmi 9.20 o 9.10, mi arrivano 9.8, ragazzi, ne affutti. Sento lo stesso, non è un problema. Già va bene. Va bene Giulio, dai, io ti saluto perché sono adesso quasi le 8.20. Quasi le 8.20. Le 8 è... E 15, 16, 17 c'ho io. 20 e 17. Inizio a passare dall'altra parte, qua spengo tutto, metto lo staccantenne, non so mai che stanotte si metta qualche temporale. Ci aggiorniamo domani, grazie alle due chiacchiere, saluto anche quelli che sono in ascolto. Ciao a tutti, buonanotte, vai giù. Ok, ciao Cla, grazie a te per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo domani. Ok, ciao ciao, buonanotte e buona cena. Ciao a tutti se c'è qualcuno che sta ascoltando, ciao. Ciao, ciao a tutte e due. Ciao, ciao Marco lì, ciao, a domani. Ciao Marco, ciao, a domani, ciao. Ciao a tutti e tre, ciao. Ciao Marì. Ciao Marino, ciao. Ah, Giulio, ciao Marco, ciao Flavio, ciao, ciao. Comunque, Flavio, le 8 e 16. Ehi, adesso ha scattato le 8 e 20, dai. Ciao Marì, un abbraccio, ci sentiamo. Sto andando a cenare che ho fame, ciao. Ah, buona carica, ciao, ciao a tutti, ciao.